La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e ben ritrovati all'appuntamento con La storia e la memoria. L'approfondimento di Dino Pesole questa settimana è dedicato alla festa dei lavoratori che si celebra oggi in Italia e nel mondo da 124 anni. In particolare, ripercorreremo insieme allo storico Giuseppe Casarrubea la giornata del 1 maggio 1947, giorno della strage in Sicilia di Portella della Ginestra. Quella che si è celebrata oggi è la giornata del lavoro, una festività che viene celebrata da 124 anni nel nostro paese e ovunque nel mondo. Festa dedicata ai lavoratori, secondo quanto è espressamente previsto dalla nostra Costituzione, che all'articolo 1, tra i principi fondamentali, sancisce che la nostra è una repubblica democratica fondata appunto sul lavoro. Festività che ha le sue radici lontane nell'Ottocento, quando si lottava duramente per conquistare l'orario di lavoro quotidiano di 8 ore, rispetto alle 14 e anche 15 ore in cui erano costretti a lavorare i lavoratori in fabbrica. Tutto partì dagli Stati Uniti. Il congresso di Baltimora del 20 agosto del 1886 si chiuse con una solenne dichiarazione che costituì la base delle rivendicazioni del movimento sindacale anche nel nostro paese. In quello stesso anno lo Stato dell'Illinois approvò una legge che sanciva la giornata di 8 ore per i dipendenti delle opere gestite o controllate da enti pubblici. L'entrata in vigore della legge venne fissata al 1 maggio del 1867. Per l'occasione il sindacato americano indisse una imponente manifestazione. 340.000 operai scioperarono a New York, Pittsburgh, Baltimora, Washington, St. Louis, Chicago. Quasi ovunque le manifestazioni si svolsero senza incidenti, tranne che a Chicago. Scioperarono 80.000 operai. Due giorni dopo, davanti ai cancelli della fabbrica McCormick, 200 poliziotti, senza alcun preavviso, spararono sui manifestanti ad altezza Duomo. Il bilancio fu molto pesante, 6 morti e 50 feriti. Il 4 maggio nuovi scontri provocarono 14 morti e 50 feriti. L'eco di quei tragici eventi fu enorme. A Parigi il Congresso socialista approvò nel 1889 una risoluzione in cui si proponeva di trasformare il 1 maggio americano in giornata internazionale del lavoro in tutti i paesi del mondo. Nasce dunque dalla netta reazione in Europa e negli Stati Uniti ai tragici eventi di Chicago la decisione di dedicare al lavoro la giornata del 1 maggio. In Italia la decisione assunta dai delegati socialisti della Seconda Internazionale di Parigi viene ratificata nel 1891. Da allora, se si eccettua la lunga notte del ventennio fascista, la festa del lavoro è stata sempre celebrata il 1 maggio. Una rievocazione che nel 1947, come sappiamo, fu funestata da un evento tragico che segnò profondamente la storia del nostro paese e che da più parti venne definita come la prima strage di Stato dell'Italia repubblicana, la strage di Portella della Ginestra. È il 1 maggio del 1947. Alcune centinaia di lavoratori dei comuni di San Giuseppe Jato, San Cipirello e Piana degli Albanesi si riuniscono a Portella della Ginestra, nei pressi di Palermo. Il primo oratore ha appena finito di parlare quando si odono i primi spari provenienti dai roccioni del Pelavet. Qualcuno applaude, pensando ai mortaretti che danno inizio alle feste popolari. In realtà si tratta di spari d'arma da fuoco, di una o più mitragliatrici, che in pochi minuti seminano il panico tra la folla. Il bilancio è di 11 morti, tra cui 2 bambini, e 27 feriti. A sparare sulla folla sono gli uomini del bandito Salvatore Giuliano. Viene accreditata, soprattutto da sinistra, la tesi che in realtà Giuliano sia solo il mandante di direttive emesse dai servizi segreti americani, che intendono così dare un segnale preciso in risposta alla vittoria del blocco del popolo alle elezioni siciliane. Agli albori della Guerra Fredda, con il mondo diviso in blocchi contrapposti, l'avanzata delle sinistre in Sicilia viene vissuta dal potente alleato americano come un grave pericolo. È questa dunque la verità dietro la strage di Portella della Ginestra? Lo abbiamo chiesto allo storico Giuseppe Casarrubea, autore tra gli altri del libro Storia segreta della Sicilia, pubblicato 5 anni fa da Bompiani, ma anche di Tango Connection, l'oro nazifascista, l'America Latina e la guerra al comunismo in Italia, anch'esso da Bompiani, in cui si indaga su quella parte di storia nazionale che va dalla caduta di Mussolini all'espulsione del PC e il PSI nel 1947 dai governi guidati da Alcide De Gasperi. Infine citiamo il libro Lupara Nera, sempre per Bompiani, in cui si racconta della fitta rete di spionaggio messa in piedi dai nazifascisti con l'obiettivo di bloccare la nascente Democrazia Italiana, che ha tra i suoi capisaldi il Comitato di Liberazione Nazionale. Professor Casarrubea, dai suoi libri emerge che gli eventi che si svolsero in Italia furono decisivi in quegli anni e gli Stati Uniti ebbero, come noto, un ruolo determinante. Sì, ma per un semplice fatto che gli Stati Uniti mantennero, diciamo, la loro presenza in Italia fino alle elezioni del 18 aprile del 48, quindi in qualche modo influirono in modo abbastanza diretto sulla politica nazionale e sulle scelte dello stesso De Gasperi. Noi lavoriamo, io e Mario Cereghino, lavoriamo esclusivamente sulle carte dei servizi segreti italiani, sloveni, americani e britannici. L'anno cruciale è il 1946, quando diciamo alcuni elementi delle istituzioni nazionali stabiliscono dei patti con Cosa Nostra, la quale viene investita di poteri eccezionali circa il mantenimento dell'ordine pubblico in Sicilia, e non solo in Sicilia, ma direi in tutto il Mezzogiorno d'Italia, e da quel momento vengono avviati dei processi di integrazione reciproca tra livelli istituzionali, livelli criminali e servizi di intelligence, che hanno l'unico scopo di bloccare l'avanzata della sinistra nel nostro paese, in quanto temevano la bolscevizzazione, così dicevano, dell'Italia. D'altro canto eravamo appunto in anni di inizio di guerra fredda e quindi in qualche modo ci si doveva schierare, questo un po' era l'imperativo di quegli anni. Ma vede, da questo punto di vista Stalin non è che avesse tutta questa vocazione a invadere l'Italia, perché era il primo che a Yalta aveva sottoscritto un accordo che divideva il mondo in due parti, l'Occidente e l'Oriente, e Stalin era stato abbastanza accontentato come alleato degli inglesi e degli americani nella guerra contro il nazifascismo, avendo avuto l'Europa orientale. Quindi che motivo aveva di infrangere, diciamo, un patto che per lui stesso era abbastanza vantaggioso. Veniamo alla strage di Portella della Ginestra. Perché ci sono voluti così tanti anni per arrivare alla verità? Ma perché c'è stata una ricerca di Mario Cereghino, mia, in diversi archivi con un dispendio di energie, e abbiamo rintracciato migliaia di documenti i quali dicono che ci fu un accordo con l'X2 di Roma, il controspionaggio americano, i servizi strategici per la sicurezza americana, con i servizi interni italiani del SIS e con elementi dello stesso governo De Gasperi. Abbiamo dei documenti che denunciano appunto questo fatto, che alcuni membri del governo De Gasperi si riunivano con i capi del neofascismo per bloccare il processo di avanzata democratica che si stava avendo in Italia giusto dopo il referendum del 2 giugno del 1946. Quindi elementi monarchici ed elementi eversivi con forti propensioni terroristiche misero in atto un progetto eversivo contro la classe dei lavoratori. Fu l'esempio, ma non l'unico, di questa strategia, diciamo, antidemocratica. Ma prima di Portella c'era stata la strage di Messina il 7 marzo del 1947, quando i carabinieri spararono sulla folle e provocarono 3 morti e diverse decine di feriti, e prima ancora c'era stato l'assassinio di Accursio Miraglia, l'assalto contro la Federterra ad Alia con altri morti, e il 22 giugno poi ci sarà dello stesso anno, quindi siamo in uno stesso frangente, ci sarà la strage di Partinico con altri morti e feriti, cioè l'assalto alle camere del lavoro. Il progetto quindi anticomunista, antibolscevico come lo chiamavano loro, era un progetto abbastanza strutturato sul territorio non solo siciliano ma anche nazionale, perché esperienze analoghe da parte dei terroristi accadevano a Milano, a Roma, con le bombe che si mettevano un po' a destra e un po' a sinistra, in Lupara Nera questo è abbastanza ben documentato, e anche nel Mezzogiorno d'Italia. Professore, grazie. Grazie a lei.